Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Qualche secondo prima delle 21, ma siamo qui. Buonasera da Agostino e soprattutto buonasera da Blu Radio Veneto, Massimo a me, c'è sempre ormai il mio fido compagno. Buonasera Maurizio Calzavara, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Maurizio, ben ciao Agostino, ben trovato. A distanza di 24 ore siamo di nuovo. Ma qui. ci troviamo musicalmente sempre. Quello è importante. Allora, questa è la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, la fascia oraria dove si ascolta sempre la buona musica, ovviamente, come tutte le fasce orarie, ma il giovedì sera c'è il sottoscritto Agostino Spolaura a tenervi compagnia fino alle 22:30. Ultimamente abbiamo fatto spessissimo live, questa sera invece non c'è la band, non c'è un artista che suona dal vivo, ma avremo una... ho voluto fare questa, come dire, trasmissione un po' particolare con delle voci che le sentiremo al telefono. Questo per dirvi che saranno tutte voci che... verranno in futuro qui in questa emittente. È un piccolo regalo che Agostino ha voluto farvi questa sera nella sua trasmissione, quindi ascolteremo anche delle canzoni. Però la prima parte è dedicata interamente a un'artista romana, è come dire una pianista cantante, forse lei si definisce anche così, ma la scopriremo via via che parleremo con lei. Intanto gli diamo il benvenuto. Ciao Silvia Manco. Salve, ciao Agostino, buonasera a tutti. Ciao. Benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie, è un immenso piacere essere qui con voi. Buonasera Silvia. Ciao. Mi dispiace di non poter essere lì in persona, ma insomma abbiamo preannunciato che si farà presto. Certo, lo sai, te l'ho già strappata la promessa prima di tutto, e poi sai che ci tengo ad averti qui in diretta con la tua musica, ovviamente, insomma. Giusto? Certo, sarà presto fatto. Allora, prima di tutto, prima di partire con te, lasciami che dia qualche notizia inerente alla radio. Questa è appunto Blu Radio Veneto, le nostre frequenze sono 88.700, 94.600 MHz in modulazione in frequenza. I nostri numeri telefonici, se ci volete contattare, il numero telefonico in studio è lo 049-875-6423, mentre per quanto riguarda gli sms 346-2320-033. Abbiamo il sito www.bluradioveneto.com. Lì ci sono tutte le informazioni, c'è anche la recensione su di te Silvia e sugli altri artisti che passano qui in questa emittente, che vengono a fare il live, e abbiamo anche le due pagine su Facebook, una è semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è dedicata specialmente alla musica rock con la gestione di Alberto Prisco, si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. Bene, Silvia, io ho subito una domanda da farti. Sì, prego. Da cosa nasce questo titolo? E il titolo del disco che sì. È Afternoon Songs, sì. Ti riferisci al titolo del disco? Certo. E nasce dall'idea e dall'intenzione, spero diciamo mantenuta così, di creare un disco che facesse un po' sentire diciamo a casa, in un'atmosfera accogliente. Il pomeriggio così è sempre un momento... è abbastanza rilassante, immagino, nella vita delle persone, per me di solito lo è, insomma, nel senso che è anche un momento in cui sono particolarmente concentrata e quindi insomma mi piaceva che avesse un'atmosfera intima, così come talvolta è intima l'atmosfera delle ore pomeridiane con questi raggi del sole che cominciano a calare, insomma, senza particolare concitazione o agitazione che magari si può avere più nella mattina, che è più frenetica, insomma, così voleva essere una maniera per creare un'atmosfera tranquilla. Certo. Io proporrei nel tardo pomeriggio, e ti spiego perché Silvia, tu in una dichiarazione hai dato una spiegazione perfetta della tua musica, che questa, la musica che propongo ha dei riferimenti sia nel jazz europeo ed americano che nella canzone d'autore italiana, e questo nuovo disco è una contaminazione perfetta di quello che tu dici. Sì, spero insomma appunto che le intenzioni siano state mantenute, quindi insomma era questo che volevo, e penso che il disco restituisca abbastanza questa atmosfera, sì. Quindi nel tardo pomeriggio, più che pomeriggio vero e proprio, nel tardo pomeriggio, perché sì. La musica di questo genere secondo me sta bene nel tardo pomeriggio verso la sera. Beh, io me lo auguro insomma. Allora Silvia, chi è Silvia Manco? Beh, insomma, così una domanda abbastanza complessa, però insomma si può rispondere in modo semplice. Sono una ragazza che a 19 anni è partita da Lecce, dalla provincia di Lecce. Io sono nata lì e ho lì la mia famiglia, mi sono trasferita a Roma in cerca, diciamo, di una maniera per coltivare la mia passione per il jazz e per la musica in un momento magari in cui così dalle mie parti nel Salento non c'era la possibilità di vivere la musica in maniera molto quotidiana, diciamo, nonostante io sia cresciuta in una famiglia in cui comunque la musica era molto amata e ho sempre potuto disporre di dischi e della possibilità, insomma, anche di studiarla. Però avevo bisogno di altri stimoli e Roma in questo senso mi ha accolto ed è stata una città importante. Vivo tuttora qui, non è detto, insomma, che non possa pensare a questo punto di andare a vivere da qualche altra parte, però finora vivere a Roma è stato importante perché mi ha permesso di essere a contatto con molti musicisti, con un ambiente artistico abbastanza vivace, con, insomma, musicisti che hanno fatto la storia in particolare del jazz, insomma, che è la musica che a me interessa di più, e quindi è stata una cosa importante per me trasferirmi qui. Di conseguenza mi sono portata dietro sicuramente quello che avevo imparato, ma poi una volta trasferita a Roma e ho imparato tante altre cose e sono cresciuta, diciamo, mi sono formata in questa città dal punto di vista musicale ed artistico in qualche modo, sì. Giustamente tu hai detto perché bisogna vivere o a Milano o a Roma per avere il centro della musicalità in Italia, c'è poco da fare. Non è detto. Beh, no, ma ci sono molte possibilità. Ma in realtà questo è un momento in cui molti musicisti, anche romani, si trasferiscono altrove, proprio perché comunque essendo Roma un posto in cui si concentrano tantissimi musicisti che provengono da tutta l'Italia e anche da alcune città d'Europa ultimamente, attratti così da più che altro dalla fama di Roma, ecco, come città, come centro così di cultura è molto importante, ma in realtà c'è anche un sovraffollamento e soprattutto anche un po' una difficoltà a farsi spazio, insomma, a farsi strada, e quindi ultimamente anche molti musicisti stanno cercando stimoli e anche contatti altrove, perché comunque altrimenti nei posti in cui si vive da sempre o da molti anni si finisce anche un po' per frequentare dei giri chiusi, poi alla fine succede sempre così, quindi se un musicista, una persona in generale, è curiosa, insomma, è bene anche assecondare la voglia di conoscere altri posti, di vivere altrove, perché no, insomma. Certo. Però quindi c'è una questione di ritorno, la gente è stanca, ci sono troppi musicisti, allora si cerca qualche altra città meno affollata dal punto di questo punto sì, di vista. Sì, non è solo quello, è anche un po' la vivibilità. Sì, esattamente, certo. È difficile perché comunque, insomma, è una città costosa, è una città in cui si fa fatica a vivere la quotidianità perché c'è, insomma, molto traffico. Per contro è una città sempre e comunque molto bella. Io, nonostante ci viva da 17 anni, mi ritrovo a scoprire sempre degli scorci nuovi, belli. Devo dire, poi questo periodo primaverile, come ovunque, insomma, però particolarmente a Roma è veramente bello perché è una città che offre tante cose. In mezz'ora si sta al mare, oppure si può fare una passeggiata sul fiume o in centro, insomma è veramente la città più bella del mondo, indubbiamente. Certo. Anche perché ti offre moltissimo comunque. Sì, è una città meravigliosa. Io so che abbiamo un pianista in comune, io e te, come gusti. Davvero? Sì, abbiamo Herbie Hancock. Ah, fantastico! L'ho scoperto per caso, è vero che ti piace così tanto? Beh, Herbie Hancock è sicuramente non può non essere un punto di riferimento, certo, per chiunque suoni il piano, ami la musica. Sì, è assolutamente un pianista, un musicista che io amo moltissimo. Certo. Ma ti sei ispirato un po' a lui o no? No, non oserei mai dire, certo, una cosa del genere, no, assolutamente. Insomma, lo trovo veramente inarrivabile, unico e figuriamoci, poi, insomma, e la mia musica è di tutt'altro tipo, per cui no, direi che è Herbie Hancock, che è nel cuore, così, certo, nell'aria, ma come Stevie Wonder, certo. Pensa che loro hanno anche collaborato a delle cose insieme, quindi sì, anni fa, però sì, sono dei musicisti straordinari, ma che diciamo trascendono la passione per un genere musicale in particolare. Stiamo parlando di due geni, di Wonder in particolare. Cioè, io credo che sia la musica fatta persona, sì, veramente. Sì. È vero, è vero. Non senti, a proposito... Dimmi, scusa, ti ho interrotto. No, dico, non ci sono parole, sarebbe difficilissimo dire di potersi essere ispirati, esserci ispirati all'uno o all'altro, sono veramente al di sopra di tutto. Certo. A proposito di musica, vogliamo ascoltare adesso Silvia Manco? Ma molto volentieri, grazie, mi farà piacere. Abbiamo scelto di comune accordo la canzone che apre il disco, Mad About The Boy. Mm-hmm. Ci la racconti un po' e poi la ascoltiamo? Sì, Mad About The Boy è un classico del jazz, una canzone che è stata eseguita dalle più grandi interpreti del repertorio jazz, è anche una canzone abbastanza trasversale perché si presta ad essere interpretata in molti modi. Io in particolare conoscevo la versione forse più nota, che è quella di una cantante nera. Carole King? No. No. Diana Washington. E comunque ho preso questo brano e ho cercato di renderlo personale il più possibile, insomma, vestendolo di tinte esotiche, nel senso che è una sorta di bolero cubano con un'atmosfera, alcuni dicono abbastanza torrida. Certo. L'ascoltiamo, ok? Bene, grazie. The boy, I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. Heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the care about the boy. Lord knows I'm not a fool girl, I really shouldn't care. Lord knows I'm not a school girl in the fury of her first affair. Will it ever cloy this all diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again and old because I'm mad about the boy. could employ a little magic that will finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad about Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Silvia, ci sei? Sì. Ti faccio una confidenza, la vuoi? Sì. A microfoni chiusi, ti confesso quello che mi ha detto Maurizio. Se questa, se Silvia viene a suonare qui dal vivo e ci canta questa canzone, ci sciogliamo tutti. Grazie, che carino. Sì, perché hai dato una, questa è una un pezzo standard del jazz e tu hai dato una versione molto particolare, torrida, giustamente hanno scritto. E poi dobbiamo sottolineare che hai dei musicisti straordinari dietro, Giovanni Falzone alla tromba, per esempio. Naturalmente, certo. Sono stata veramente supportata in maniera eccelsa, ecco, non potevo chiedere di meglio. Sì, questo è il tuo secondo disco ed è stato spinto, prodotto assieme con te, è stato prodotto da Roberto Gatto, uno dei musicisti più importanti nell'ambito jazz italiano, assolutamente. Assolutamente, certo, è stato un onore immenso per me avere questa possibilità e insomma non ringrazierò mai abbastanza Roberto Gatto di avermi generosamente dato questa occasione. E poi è bello che questo disco non è soltanto cover, ma ci sono anche i tuoi pezzi originali. Sì, beh, ho sempre amato scrivere, continuo a farlo e naturalmente all'inizio la mia idea era quella di proporre un disco interamente di brani originali, sì, diciamo, per mettermi in gioco come autrice. Certo. Fino in fondo, e poi proprio attraverso, diciamo, la collaborazione con Roberto Gatto è venuta fuori l'idea, insomma, anche di, perché no, di inserire dei brani di altri, però magari fatti alla mia maniera, perché io credo, condivido l'idea di Roberto Gatto, insomma, che sostiene che comunque anche attraverso l'interpretazione di cose scritte da altri uno può rivelare la propria personalità, ed in effetti è vero, insomma, perché un brano può cambiare totalmente in un'altra interpretazione, può assumere una veste completamente nuova, è un po' quasi come riscriverlo, se è un brano esatto. Che tu ami molto e che insomma puoi rendere tuo quando lo arrangi, quando lo vesti di così della tua stoffa, lo puoi completamente trasformare e rendere quasi tuo a tutti gli effetti, volendo. Certo, e citiamo, oltre a Roberto Gatto e a Giovanni Falzone, i grandi altri musicisti che hanno partecipato a questo disco. Naturalmente, certo, c'è Dario De Ida, un grandissimo bassista. Esatto. E poi c'è Fabio Zeppetella alle chitarre e poi c'è il giovane Daniele Tittarelli ai sassofoni. Quindi una serie di musicisti di altissimo livello che hanno contribuito a dare le diverse facce che tu hai voluto dare a questo disco. Sì, certo. Loro incredibilmente si sono messi veramente a disposizione così della musica e anche delle mie idee, poi ognuno comunque ha dato il suo apporto, però devo dire che c'è stata un'apertura e una disponibilità enorme proprio per cercare di rendere al meglio il tipo di musica che andavamo a suonare, nonostante siano tutti musicisti, intanto tutti musicisti leader, ognuno dei quali ha i suoi progetti, intanto la sua storia personale e artistica alle spalle, ma c'è stata veramente grande disponibilità, grande umanità, grande professionalità e molto cuore, insomma, nel modo in cui si sono messi a disposizione. Come nascono le tue canzoni, quelle proprio tue, Silvia? Ma di solito da un'idea melodica, da una suggestione di qualche tipo, non c'è una modalità che si ripete in generale. Insomma, cioè ti viene magari in mente, componi in qualsiasi momento della giornata? Come ti Ma no, cioè, no, compongo a periodi intanto e magari tutta la spinta così di ascolti che sto facendo in quel periodo, oppure di brani che mi hanno colpito e che mi sono rimasti così nel cuore, magari di solito insomma non è mai veramente prestabilito il momento in cui uno si mette a scrivere delle cose, a volte sono solo appunti che poi prendono forma molto tempo dopo o che rimangono lì anche a volte insomma senza avere un seguito. Certo. Io non so dove ho letto che ti definisci una pianista cantante, è vero questa definizione che ti dai di te stessa? Ma forse la definizione che più mi calza, anche se comunque poi si cambia anche nel tempo, però insomma direi che io mi sento una pianista che canta. Ecco. Senza voler togliere nulla né al fatto di cantare né al fatto di suonare, ma insomma diciamo che mi riesce difficile pensare di separarmi dal pianoforte quando canto. Mi piace l'idea di stare dietro il pianoforte, di poter non controllare ma comunque guidare, dare una direzione alla musica attraverso sì, il pianoforte, perché comunque scrivendo anche le mie cose ho l'impressione che comunque il pianoforte mi dia la possibilità anche di far capire come voglio che insomma vengano eseguite, insomma riesco a dare un'impronta più personale. Comunque c'è molta considerazione su di te in giro, da come mi risulta, è vero? Ma non lo so, figurati. Sì, sì. Quello che importa è che la musica piaccia a chi l'ascolta, certo. E quindi questa è per me la soddisfazione più grande, ovviamente. Certo. A proposito di piacere, a me appena ho ascoltato il tuo disco è piaciuta subito la canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare, che è Parallel Lines. Sì. E ce la racconti un po' e poi ce l'ascoltiamo? Ecco, per esempio Parallel Lines è un brano anomalo all'interno del disco, perché io non lo conoscevo inizialmente, è stato proprio Roberto Gatto a propormelo, di Todd Rundgren, che è questo mastodontico produttore. Sì, nel senso che io per esempio non sapevo chi fosse, quindi ho dovuto dichiarare di non conoscerlo e Roberto mi ha invitato così ad aggiornarmi, ad informarmi, ad ascoltare delle cose, in particolare a lui piaceva questo brano e mi ha, come dire, proposto di provare a farne una versione per il disco, e quindi poi ci siamo messi a, come si dice in gergo, tirarlo giù, a cercare quale fosse insomma la maniera migliore di farlo, ed è venuta fuori questa versione insomma che poi alla fine mi ha convinto molto. Delle volte è anche molto importante lo sguardo intanto del produttore, ma comunque uno sguardo esterno, perché magari ti permette di cimentarti in delle cose che pensavi di non essere in grado di fare o che non avresti mai pensato di fare. Io credo che non avrei mai conosciuto Todd Rundgren se non mi fosse arrivato questo input diciamo da Roberto, che invece è un musicista che conosce tutta la musica possibile. Certo. E allora ce l'ascoltiamo, va bene? Bene, bene. Kindred spirits moving along the spiral. I can see you up on another level. It's too great a fall and I can't reach you to pull me higher, but I don't seem to get much closer or any more far. What would you tell me if I could hear you speaking? If you could touch me, how would I know the feeling? I just can't imagine, but I try to do it anyway. I wish I was moving faster, I wish you'd drift back, but it just wasn't meant to happen. Very soon I have to face the fact, some things never come together. Parallel lines running on forever, and you can't turn back, there is never any starting over. Means that we must surrender. Understanding won't satisfy the hunger, it withers away, and the destiny will fulfill. need time to face the fact. Some things never come together. Parallel lines running on forever. And you can't turn back. There is never any starting over. Che dolcezza, Silvia, sei straordinaria, lascia che te lo dica, tanto non ci sente nessuno, ma mi piace veramente tantissimo, sei bravissima. Posso dire una cosa, Silvia? Io conosco musica, cioè da tanti anni trasmettiamo qui in radio, ed è pochissimi casi di musicisti che si sono avvicinati a Todd Rundgren. È molto difficile, io faccio i complimenti, perché Todd Rundgren è un musicista di straordinaria capacità, ma difficile da avvicinarsi a lui. È proprio l'hai preso e l'hai attraverso, grazie anche a Roberto Gatto, avete fatto un lavoro molto interessante. Grazie, grazie, è stata davvero un'occasione per me, appunto, anche per poter conoscere delle cose nuove, ecco, e da punti di vista diversi. Sono molto contenta, è stata un'esperienza molto arricchente anche per questo, insomma, proprio per la possibilità di aprirsi a nuove cose. Tu sei un artista a 360 gradi, perché hai fatto anche a teatro, hai fatto pop, hai seguito Massimo Ranieri e altri artisti importanti, quindi, e poi hai vinto un premio prestigioso quando eri in Trio, un premio Porsche, un premio prestigioso di jazz, non è semplice. Sì, proprio lì a Padova. Esattamente, premio Porsche di Padova, quindi una cosa molto importante secondo me. Beh sì, è stato bello, in realtà io non sono un tipo molto competitivo, per cui quella volta mandai così questo demo ad un concorso di cui avevo letto su un giornale e andò bene, più che altro fu un'occasione per suonare un po' in giro e per conoscere anche altri musicisti che come me avevano sostenuto questo concorso, insomma. Certo. Il premio era una cosa, insomma, carina rispetto ad altri premi, perché la possibilità era quella di suonare un po' in giro, che è la cosa più importante poi per un musicista, di farsi conoscere un po', quindi fu un'occasione, insomma, importante per quello. Vabbè, Silvia, diamo qualche dato tecnico. Allora, dove si può acquistare il tuo disco, i concerti, le tue pagine, siti, eccetera, eccetera, insomma, per comunicare con te, insomma, in qualche maniera. Beh, sì, il mio disco pare si trovi abbastanza frequentemente in giro nei negozi di dischi. Mi hanno detto che è presente, mm-hmm. E io non sono mai andata a cercarlo, perché, insomma, però, insomma, so che è abbastanza presente. In ogni caso si può anche comprare sia online che sul sito dell'etichetta che lo ha prodotto, e che è un'etichetta romana che si chiama Nuccia. Esatto, sì. E nulla, io sì, ho dei concerti quest'estate in trio più che altro, perché comunque insomma le formazioni più grandi sono sempre difficili da organizzare, per cui il trio comunque rimane una dimensione che a me piace moltissimo, mi piace molto suonare in trio e quindi insomma quando mi capita di poter proporre delle cose o mi si richiede insomma di proporre delle cose, spesso prediligo questa formazione. E anche a Roma ancora ci saranno un paio di concerti prima della chiusura della stagione invernale, e poi si spera insomma in occasioni estive all'aperto, così importanti. Adesso siamo così in fase di trattative ancora. E il concerto a Blu Radio Veneto? Blu Radio Veneto! Siamo ancora in trattative. A più presto, spero. Era una battuta la mia, Silvia. No, figuriamoci. Mi auguro veramente che si possa fare presto. Guarda, adesso c'hai anche un altro innamorato, si chiama Maurizio. E quindi veramente, guarda, te lo dico con il cuore in mano, ti aspettiamo veramente con una gioia immensa, e sarebbe veramente molto bello. Ti ringrazio, veramente siete molto gentili, spero che si possa fare presto, perché anche a me fa molto piacere avere la possibilità insomma di conoscervi e di suonare dal vivo. È sempre una cosa speciale quella di suonare dal vivo per radio, devo dire. È una cosa veramente molto bella. E noi facciamo soprattutto suonare dal vivo, ovviamente, gli artisti che vengono qui, perché più suonano dal vivo, più siamo contenti anche noi. E più si fanno conoscere. Ma è una cosa molto bella proprio suonare dal vivo per radio. E poi è diverso che fare un concerto, insomma. Si raggiunge tanta più gente, anche così per caso, diciamo. Non necessariamente persone che sono venute a sentirti, come può accadere in un concerto, ma invece le persone che accendono anche la radio per caso, insomma. Quindi è una dimensione molto molto bella, piena di sorprese. Certo. Silvia, allora noi ci salutiamo qui. Bene. Ci salutiamo con un'ultima canzone, che è quella che abbiamo scelto per la programmazione nostra, che è la scelta Maurizio. Sì, ho scelto perché tu hai fatto una tua versione personalissima, come giustamente hanno scritto nell'ufficio stampa, e sono perfettamente d'accordo con loro, di un pezzo non semplice. I Massive Attack non sono mai semplici a riproporre. No, no. E tu l'hai riproposta molto bene. Teardrop è uno dei pezzi più importanti, e tu l'hai plasmata, l'hai fatta tua, e questo è importante secondo me. Sì, è un brano che mi ha sempre molto affascinato, e poi mi è capitato, devo dire, anche dopo aver più o meno già stabilito quale fosse la scaletta del disco, e mi è capitato poi di riascoltarlo, e così mi sono messa al pianoforte, è venuto fuori questo nuovo arrangiamento, per cui che insomma poi si è rivelato diciamo efficace, che ha trovato spazio poi nella scaletta del disco, che era già chiusa, insomma. È stato così, è stata un'aggiunta valida, secondo me. Assolutamente è stato aggiunto, e devo dire che sì, che è riuscito bene. Ha un'atmosfera trovo abbastanza ipnotica, sì. Insomma, dovuta anche all'intervento lunare dei musicisti che appunto hanno partecipato. A un certo punto si apre, sentirete, un momento diciamo free, dove i musicisti veramente che hanno partecipato al disco danno il loro meglio con delle atmosfere che io veramente definisco lunari, perché è l'aggettivo che mi sembra più adatto. Benissimo. Silvia, allora, grazie veramente di essere stata con noi questa sera, di aver partecipato. Grazie a voi, Maurizio, grazie Agostino, vi ringrazio moltissimo. E noi restiamo in contatto, vero? Tanto ci sentiamo io e te, e spero veramente di vederti qui, di fare ascoltare la tua voce e la tua musica a tutti i nostri ascoltatori dal vivo, qui in studio. Sarà un'immensa gioia. Ciao Silvia, grazie, buoni concerti, e ti aspettiamo chiaramente qua per il tuo concerto live a Blu Radio Veneto. Grazie a voi e a presto. Ciao, grazie. Ciao, un bacio Silvia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La salutiamo con T-Drops. E certamente. T-Drop. Love is a verb, love is a do. makes me lighter, feel less on my breath. Teardrop on the fire, feel less on my breath. Teardrop on the fire. Yeah.